Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Buongiorno, un bel buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM e bentornati o benvenuti a tutti e a tutte in questa nuova puntata di Fuji Comics. Io sono Rachele Copparoni, siamo ormai giunti direi alla nona puntata se non perdo i pezzi per strada. Ore 10:34 parte appunto questa giornata, in tra l'altro una bellissima aria di sole, e anche se effettivamente fa parecchio freddo perché sono 0 gradi, 1 grado, dicevamo che ci sono già macchine congelate con la brina sopra da insomma levare la mattina presto, ma insomma ormai lo sapete che la magia di Fuji Comics del mercoledì mattina porta sempre sole nelle vostre giornate. Reduci dalla scorsa puntata in cui tutto l'intero palinsesto, l'intera giornata di Radio Città Fujiko era dedicata ai fumetti, alle graphic novel, e sono usciti anche più articoli all'interno del nostro sito www.radiocittafujiko.it. Il fumetto in Italia, qual è il suo stato di salute, articoli sul Bilbul Bull che ormai è terminato. Comunque, se vi siete persi qualcosa, come sempre andate a recuperarlo sul sito appunto www.radiocittafujiko.it. E insomma io volevo giusto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla giornata di cartone, che appunto era il titolo della scorso mercoledì, in cui tutto l'intero palinsesto di Radio Città Fujiko era dedicato ai fumetti e alle graphic novel. Un grazie a tutti e a tutte. E ricordiamo anche subito i vari contatti con cui iscriverci. Partiamo ovviamente dal numero di telefono tramite cui potete mandarci un SMS, un WhatsApp oppure su Telegram, che è 333-180-9494. Ve lo ripeto, 333-180-9494. Ovviamente potete seguirci anche in tutti i vari social, Facebook, Instagram, Twitter, appunto Telegram, WhatsApp, eccetera, e andare sempre sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Ma direi di partire subito con la musica. Se vi dico Francesco Di Gesù, chi vi viene in mente? Forse detto così nessuno, ma in realtà è un rapper torinese molto conosciuto. Sto parlando di Frank High Energy, in cui appunto il suo nome, e non il nome d'arte, è Francesco Di Gesù. Rapper torinese cresciuto in realtà principalmente a Caserta, è diventato insomma uno delle icone del rap italiano all'albori degli anni 90. Tra l'altro la canzone che ci andremo a sentire, una delle sue canzoni più famose, che è Quelli che ben pensano, il video di questa canzone è stato proprio sceneggiato da lui stesso e l'ha cantato anche insieme a Caparezza, che è un altro artista che incontreremo nella playlist di oggi durante il premio Tenco. E ha aperto, leggendo un po' la biografia di Frank High Energy, ho scoperto che ha anche aperto i concerti dei Beastie Boys nel 1992, e Beastie Boys sarà un altro dei gruppi che ci andremo a ascoltare nella playlist di oggi, così già partono qualche spoiler su quale sarà la colonna sonora di questa nona puntata di Fuji Comics. Ma andiamo ad ascoltarci subito Frank High Energy con Quelli che ben pensano.

prossimo tutti gli eventi principali che trattano di temi riguardanti fumetti e graphic novel, e si continuerà a parlare un po' di Bilbo il Bull, perché nonostante sia finito il 1° dicembre continuano, ecco, gli eventi di questo festival. Ma torniamo un po' a parlare anche di musica, perché non so se l'avevate intuito dalla mia intro, ma la musica rap, l'hip hop, insomma, sarà quel tipo di musica che, insomma, ci farà da colonna sonora di queste 2 ore di puntata di Fujicomics. Infatti il rap è sempre stato e sempre sarà, insomma, vicino alle tematiche dal basso, diciamo così, e quindi faremo un po' un viaggio tra le icone sia italiane che straniere, tra il passato e il presente di questo genere musicale. E a proposito di passato e presente, se abbiamo parlato degli anni 90 con Frank High Energy, torniamo un po' nel presente e parliamo di colui che, insomma, ha vinto addirittura il premio Pulitzer 2018, il primo rapper che ha vinto questo importante premio per i suoi testi e la sua musica. Sto parlando di Kendrick Lamar, che tra l'altro sarà proprio in Italia per un concerto al Rock in Roma il 2020, il 7 luglio all'Ippodromo delle Campanelle. Sarà appunto presente, penso per la prima volta, non so se mi sto sbagliando, in Italia per appunto il concerto. Ancora i biglietti sono disponibili, ho dato un'occhiata, vanno da 60-80 euro, quindi, insomma, iniziate a mettervi qualche soldino da parte se volete andarvi a vedere Kendrick Lamar. Ho già detto vincitore del premio Pulitzer 2018, 12 Grammy, è stato inserito tra le 100 persone più influenti del mondo. Billboard l'ha definito come shakespeariano per le tematiche che tratta. È vicino al razzismo, all'autodeterminazione della comunità di colore, all'ingiustizia sociale, quindi, insomma, non poteva decisamente mancare nella playlist di oggi. E quindi ci andiamo a ascoltare Kendrick Lamar con Bitch Don't Call My Vibe. Who's probably gonna sin again? Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from 2 planets away. I got my drink, I got my music, I will share it, but today I'm feeling. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. I can feel a new life. I always knew life can be dangerous. I can say that I like a challenge and you to me is painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with you? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is petty again. But even a small light, it can burn a bridge. Even a small light, it can burn a bridge. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check. With all disrespect, let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from 2 planets away. I got my drink, I got my music, I will share it, but today I'm feeling. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love. You're trying to keep it deprived and only co-sign what radio does. And I'm looking right past you. We live in a world, we live in a world on 2 different axles. You live in a world, you're living behind the mirror. I know what you're scared of, the feeling, emotions inferior. This shit is vital, I know you had to. This shit is vital, I know you had to. Die in a pitiful pain, tell me you're watching the chain. It's way more believable, give me a feasible gain. Rather her seasonal name, I'll let the people know this is something you can blame. On yourself you can remain, stuck in a box. I'ma break out and then hide every lock. I'ma break out and then hide every lock. I can feel the changes, I can feel the new people around me. Just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check. With all disrespect, let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm winning. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. You ain't heard the coast like this in a long time. Don't you see that long line? And they waiting on Kendrick like the first and the 15th. Threes in the air, I can see you are. Hide your feelings now. What you better do? I'll take your girlfriend and put that pussy on the pedestal. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Walk out the door and they scream it's a ride. My New Year's resolution is to stop all the pollution. Talk too motherfucking much. I got my drink, I got my music. I drink. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. E questo era appunto Kendrick Lamar con Bitch Don't Kill Me Vibe. E siamo giunti al momento del consiglio di lettura della settimana. Come vi avevo appunto anticipato nel menu della puntata, quest'oggi il consiglio di lettura ci viene gentilmente offerto da Cristiana Fumagalli, in arte Arte Sghimbescia, con questo nome così particolare, il quale appunto racchiude tutta la sua artisticità e tutta la sua brislaccheria, come dice lei. Nella realtà appunto si chiama Cristiana Fumagalli, brianzola, classe 91, autodidatta. Fa parte appunto del mondo delle autoproduzioni. Il suo stile lo definiscono a metà strada tra l'americano e il giapponese, ma appunto lei lo definisce unicamente sghimbescio, giustamente. Con lei nelle scorse puntate, se vi siete persi qualcosa, andate sul sito www.radiocittafugico.it per recuperare l'articolo con la sua intervista. E con lei abbiamo parlato di Parental Control e Hell Drama, che sono i suoi due fumetti autoprodotti, scusatemi, ed è appunto di tutto il mondo dell'autoproduzione. Questa volta non ci ha dato ben uno, ma tre consigli di lettura. Ve li dico già, così ve li potete segnare, prendete carta e penna. Si tratta di Stirpe di pesce di Laura Spianelli, Odio Favolandia di Scotty Young e Il blu è il colore caldo di Julie Marot, di cui abbiamo anche già parlato e da quello che so ne hanno anche parlato a mercoledì scorso nella puntata appunto di Fujiko Factory, in cui Benedetta è arrivata qua in studio con il fumetto proprio in carta e mi ha promesso che me l'avrebbe prestato. Quindi ho il doppio consiglio di lettura sia da Benedetta che da Arte Sghimbescia, quindi devo assolutamente leggerlo. E andiamo a sentirci appunto questi consigli di lettura da parte di Cristiana Fumagalli. Il consiglio della settimana. Veniamo passiamo invece all'altra domanda. Avresti un consiglio di lettura da dare a me e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici? Qualcosa che ultimamente ti è piaciuto o che sei andata a ripescare nella tua libreria personale? Di consigli di lettura ce ne ho un fottio. Dipende, dimmi magari un argomento, dammi là e magari riesco a trovarti qualcosa di più specifico. Magari gli acquisti che hai fatto a Lucca, visto che è una cosa recente, o qualcosa che hai letto in queste settimane, sempre di fumetti ovviamente. Beh, allora, a livello Lucca ho veramente comprato poco, ma se devo dire, se dovessi citare un nome, posso dirti Stirpe di Pesce, che è il fumetto realizzato da una mia cara amica e il suo compagno. Ed è una storia, non voglio spoilerare troppo, ma è come se fosse una sirenetta in chiave moderna ed è bellissimo. Ed è una serie a puntate, quindi a Lucca ho preso il nuovo numero. Altrimenti vediamo che cosa posso consigliare. Cioè, ce l'ho proprio davanti la mia libreria. Che cosa posso consigliare? Vabbè, per quanto esula il discorso comunque LGBT e cose così, posso consigliare Odio Favolandia, bellissimo, di questo autore, mi pare americano. Tutto scombinato, tutto bello colorato, simpatico un sacco, ed è la storia di questa bambina intrappolata in un mondo delle favole, bellissimo. Altrimenti vediamo, se vogliamo seguire invece l'onda LGBT, io consiglio sempre comunque Il blu è un colore caldo di Julie Marot. Perfetto, direi che ci hai dato veramente tantissimi consigli di lettura e quindi ti ringrazio. Grazie a te. Grazie mille Cristiana e buon lavoro. Anche a voi, buona giornata. Fuck all you hoes. Get a grip, motherfucker. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle. You know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. And personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack, now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Mad Flavor. Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Programs worldwide, let them recognize from Long Beach to Rose. It's Westside, so you know the roll will bow down the no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. Continua così il nostro percorso, il nostro viaggio oltre oceano tra le icone del passato e del presente del rap. E certamente non potevano mancare due grandi protagonisti, uno dalla East Coast e uno dalla West Coast. Infatti prima della pubblicità abbiamo ascoltato Notorious B.I.G. con Juicy, uno dei più importanti rapper made in USA. Quello era il primo singolo estratto dal suo album di debutto Ready to Die. E appunto ricordiamo anche così rapidamente, perché non mi voglio mettere all'interno della faida East Coast West Coast, ma insomma Biggie venne assassinato in una sparatoria automobilistica a LA nel 1997. Tra l'altro nel 2009 hanno fatto anche un film in sua memoria, appunto dal titolo Notorious B.I.G., e se non mi sbaglio ci sono anche diverse serie, forse una avevo anche iniziato a guardarla. Mentre ora ci siamo appena ascoltati Tupac, il suo insomma rivale, che viene dalla West Coast, un rapper e attivista nato ad Harlem, e nella rivista Rolling Stones è stato inserito tra i 100 migliori artisti di sempre. E proseguiamo ancora con un po' di musica prima di addentrarci nell'intervista con Giovanni di Elementi Kairos per la ristampa di Prossima Fermata, firmato da Zero Calcare e R. Push. Ora ci ascoltiamo un altro grande gruppo che era veramente immancabile all'interno della playlist di oggi. Sto parlando dei Fugees. Tra l'altro il loro nome è un'abbreviazione di rifugiato, che ha una doppia valenza. Infatti intende sia il termine rifugio, inteso appunto come proprio rifugio della propria mente, ma anche è un termine dispregiativo utilizzato nei confronti degli haitiani che chiedevano asilo sociale, asilo politico negli USA. Infatti proprio uno dei componenti dei Fugees è di origini haitiane. Questo pezzo è del 1995 ed è il primo singolo dal loro secondo album The Score. Tra l'altro questa canzone contiene più campionamenti, sia la base, diciamo il campionamento di una canzone di Ramsey Lewis, mentre il ritornello è preso da Tina Marie. E adesso ci andiamo a ascoltare Fugee La. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they that hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll ride the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah, yeah. Ooh la la. Yeah. pogos on the first episode. Shouldn't just refugees and the whole sound set booty and half a respect jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ushuaithan, I'm a true champion like Farrakhan, reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what, we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. Torniamo in diretta dopo aver ascoltato i Fugees e una delle loro più grandi hit, che è appunto Fugila. E torniamo anche un attimo più seri, perché come vi avevo anticipato precedentemente all'interno del menu della puntata, questa giornata, queste due ore di Fuji Comics saranno caratterizzate dalla chiacchierata che ho fatto con Giovanni, uno dei principali, diciamo, elementi che compongono Elementi Kairos. Elementi Kairos è una casa editrice autoprodotta, indipendente, di origini romane. Sono stati recentemente qui a Bologna al Bug 61 per presentare la ripubblicazione, la ristampa di un loro libro fumetto che era stato pubblicato inizialmente nel 2016. Sto parlando di Prossima Fermata, il fumetto firmato appunto da Zero Calcare e R. Push, due artisti molto conosciuti romani. E all'interno di Prossima Fermata viene raccontata la storia di Renato Biagetti, che una sera all'estrema periferia di Roma viene ucciso da due giovani neofascisti. Con Giovanni abbiamo appunto parlato sia di che cosa è accaduto realmente quella notte, che cosa è accaduto anche nei giorni successivi, che riscontro c'è stato dalla parte dei suoi amici, della sua famiglia sempre molto presente, soprattutto delle istituzioni, del sindaco di quel tempo di Roma. Abbiamo parlato del fenomeno della normalizzazione del fascismo, di come aiutare le loro autoproduzioni, e infine abbiamo anche parlato un po', insomma, di tutti i loro progetti, da appunto questo fumetto fino al progetto che è partito recentemente nelle scuole di Roma, che si chiama La Politica Non C'entra Niente, e anche del loro festival, il documentario Io Non Dimentico. Quindi insomma tutto ciò che il collettivo Elementi Kairos propone sia a Roma, ma appunto anche, come dirà lo stesso Giovanni, un po' in tutta Italia. E andiamo a sentirci proprio la chiacchierata che ho fatto con Giovanni di Elementi Kairos. Buongiorno a tutti, siamo qui con Giovanni di Elementi Kairos. Buongiorno e benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.

e si sono cominciate a vedere, a scrivere, a parlare. Quindi diciamo che prossima fermata è solo un pezzettino di tutta una serie di cose che Renato ci ha lasciato in dono, diciamo. Duro, you gotta let it bump. Like that, yeah. Come on, bring the chorus in. Do a bid, lose a rib, bustin', trustin' that. Run up the heaven doors, exchange my life for yours. Leave a stake out the door, mi casa, su casa. Just remember to turn the lights off in the hall. My brother from another pop, minus one shot. We need no G money, man, we all we got. From the stoop to the big dude, stopping us from playing hoops. And us getting mad, throwing rocks off the roof. Straight thuggin', man, I thought we would never progress. But look at us now, man, we young execs. My name, my big, my time, my high, my Gotti, we your body, all is right with the world. No matter how pretty she is, you ever liking my girl. That's how we run when you ain't around. I spank your son, keep him in line. If you should die, I keep him like mine. God forbid, keep this in mind, my little baby, but these streets raise me crazy. Product of my environment, nothing can save me. Thanks for letting me bloom, for your wisdom, for your womb, for the roof over my head, for my shoes, for my bed. For the most important lesson in life was when you said, strive for what you believe in, set goals and you can achieve them. Thanks for the days you kept me breathing, when my asthma was bad and my chest was wheezing. Thanks for the look of love just as I was leaving. On nights you thought I wouldn't come back, that left you grieving. Thanks for holding down the household when times was bad. As a man, I apologize for my dad. When the rent was due, you would hustle like a pimp would do. That wasn't a life meant for you. You're a queen, you deserve the cream. Everything that gleams, everything that shines, everything that's mine. And I'm signing it, your uncle, your best friend, and your dad. Don't look back if you fall and you feeling bad. I'm right there from your cut to when you peeling the scab. If it comes a time and you ain't feeling your real dad, put my face on this body. Don't wait for nobody. Don't follow no. That's hope, man. Stand on your own two. Do yo. You took the bomb. Fuji Comics. Fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico.

Sbilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese. Tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, è il tuo capo cinese. C'è un lavoro di merda, è il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Stanno ai discorsi di qualcuno? Lampedusa è un villaggio turistico. I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno ai discorsi di qualcuno? Gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione. Che poi non è tutta sta novità, pensa tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone. Invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E e quale canzone poteva chiudere al meglio questa chiacchierata con elementi Kairos se non Io non sono razzista ma, che è una frase che purtroppo ultimamente, ma non solo ultimamente direi, ci sentiamo dire veramente spesso. E abbiamo appunto appena ascoltato Guglielmo Bruno, in arte Willy Pegliote, rapper torinese, di cui il nome diciamo unisce sia un po' Guglielmo, quindi Willy, sia Willy Coyote e anche il peyote, la pianta allucinogena che proviene insomma dall'America settentrionale. E Willy Peyote ormai insomma anche lui inizia a scrivere un tassello di storia del rap, perché è dal 2004 che si è inserito all'interno di questo genere musicale. Tra l'altro Willy Peyote è stato anche ospite a Fujiko Factory, quindi qua a Radio Città Fujiko, e se volete potete andare sul sito www.radiocittafujiko.it a recuperare l'intervista che i ragazzi le hanno fatti. Vi ricordo anche tutti le varie modalità con cui potete raggiungerci tramite SMS, WhatsApp o Telegram al numero 333 180 9494. Ve lo ridico anche: 333 180 9494. Se invece vi siete persi qualche puntata scorsa di Fuji Comics, potete andare sia sulla pagina Facebook, che appunto si chiama Fuji Comics, e da qualche giorno ormai anche su Instagram, a seguire che cosa succede durante le preparazioni della puntata. Ma continuiamo con un po' di musica, adesso ci andiamo ad ascoltare i Chinese Men, questi DJ francesi che appunto fanno ovviamente hip hop, formatosi nel 2004, e il trio è composto da due DJ e un beatmaker, e io sono totalmente innamorata di loro. Sono anche andata a sentirli live a Torino ormai qualche anno fa, hanno fatto un super concerto pazzesco, quindi se vi capita di averli nella vostra città vi consiglio di andarli a sentire. E sono anche totalmente innamorata del video di questa canzone, che è Indie Groove. vraie bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la guerre générale. And the fight of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Une question. La réponse des manifestants a été dans un cri unanime : libérons nos camarades. But you must hop right out and don't be lazy. Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up? Lazy Mary, will you get up? Will you get up today? You took the bomb. Fuji Comics. Fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Da folha, puxa da folha. sul programma freddo. Datemi una sciarpa, c'ho paura che mi ammalo, sto tremando. Questa schiumetta viscida mi ha ormai inzuppato, come i biscotti dentro il latte che ho sboccato. Le previsioni sono marroni, non ti sento. Non rompere i coglioni, sono in sbattimento, non ho tempo. Non c'è trippa per i gatti, per i fiori faccia autunno. Fisso se ci piscio sopra, poi non sbocceranno. Sicuramente acido il mio stomaco, rifiuta quello che gli do. Viaggio sul cianotico, gonfio di fastidio, so che non c'è medico. Sto impazzendo, quello che è strano è che rimango lucido. Logico per me cercare di capire a cosa vado incontro. Vengo da fuori, non ci sto più dentro. Perdo la rotta, entro in avaria. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Si è compiuto, non ci rincontriamo ancora. Diversa storia, diversa scuola. Lo stesso spirito che ci accomuna. Se non ti schieri con il male, qui la causa è una. Puoi sentire il suono, ma puoi vedere tu la luce. La tensione che c'è assieme ancora ci conduce a combattere alleati un'altra volta la crociata. Ora, solo ora, ora è ricominciata. DJ Graf, Casino Royale, insieme uguali condividono il destino come cavaliere. Amai in questa terra ostile, se in realtà combatte il mito. Ripeto il giuramento, the wanna be nobody zero, the wanna be nobody star. Rifletti nel tuo suono la tua dignità, ehi, hey, ascolta il missionario che assassina il suo messia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella mia lucida follia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella mia lucida follia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella mia lucida follia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella mia lucida follia. Un viaggio nella lucida follia. Un viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Viaggio nella lucida follia. Viaggio nella mia lucida follia. Ore 12:06, torniamo in diretta su Fujicomics per ormai, insomma, siamo giunti alla fine, quindi per l'ultima mezz'ora di questa nona puntata, sempre con la vostra Rachele Copparoni. E abbiamo appena ascoltato Lucida Follia di DJ Graf, Sandro Orru, che ha iniziato la sua carriera inizialmente per la passione per lo scratch, poi breakdance, beatbox e infine, insomma, è approdato nel mondo del rap, diventando decisamente una pietra miliare del rap italiano. E Lucida Follia era contenuta all'interno di Zero Stress, il secondo album solista. Io purtroppo non ho mai visto DJ Graf dal vivo, nonostante sia appunto ospite nei vari discoteche, club bolognesi. Una volta avevo vinto proprio qua in radio il biglietto per andarci, poi mi sono ammalata, non mi ricordo che è successo e quindi non sono più tornata. Ma fatemi sapere al 333 180 9494 se per caso fra poco sarà di nuovo da qualche parte qui a Bologna. E visto che siamo entrati ormai nell'ultima mezz'ora, quella più chiacchiericcia ormai si sa, in cui appunto andiamo a vedere un po' quali sono gli eventi della settimana e le novità in uscita di fumetti e graphic novel, ma partiamo subito dagli eventi. In realtà ci spostiamo un po' perché non rimaniamo a Bologna ma andiamo a Reggio Emilia. Infatti il 7-8 dicembre, quindi questo fine settimana, si terrà la 63esima edizione della mostra Mercato del Fumetto di Reggio Emilia, organizzata da ANAFI, l'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione, e dall'ARCI di Reggio Emilia, e si terrà presso il padiglione B delle fiere appunto di Reggio Emilia. Ve ne parlo così rapidamente perché gli ospiti sono veramente tanti. Sicuramente l'ospite più speciale è Fabio Civitelli, uno dei più celebri e amati disegnatori di uno dei più importanti fumetti italiani, che è Tex. Tra l'altro Tex ha appena celebrato i 70 anni di vita ed è tuttora il fumetto più venduto in assoluto nel nostro paese. Fabio Civitelli vedrà i suoi fan sia il sabato durante la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17, e anche la domenica sempre la mattina dalle 10 alle 12, e firmerà anche una stampa prodotta proprio per l'occasione con un suo disegno originale di Tex Wheeler, autorizzato appunto dalla Sergio Bonelli editore. Ci sarà anche una mostra dedicata a si può dire sia Paolo che Paul Campani, con la collaborazione della regione Emilia-Romagna, che è appunto autore modenese molto celebre per aver creato insieme a Max Garnier la Paul Film, responsabile di gran parte delle pubblicità dei cartoni animati di Carosello. Ma insomma, gli espositori a questa 63esima edizione della mostra Mercato dei Fumetti di Reggio Emilia è veramente ampia, quindi folta presenza di espositori, ce ne saranno più di 120, quindi vi invito direttamente ad andare a cercare sul sito della 63esima edizione della fiera a Reggio Emilia, che si terrà appunto questo fine settimana. Ma noi proseguiamo ancora con un po' di musica, e ovviamente non potevano mancare loro. Penso forse il mio gruppo preferito di tutta la vita, li ho visti non so quante volte live, ho perso il conto. Sto parlando dei Colle del Fomento, nati nel 1994 a Roma, formati da Dano Masito e ora DJ Baro. Finalmente sono usciti recentemente con il loro quarto album Adversus, dopo 11 anni di distanza da Anima e Ghiaccio, quindi album veramente attesissimo, e ora ci andiamo ad ascoltare secondo me uno dei pezzi più belli, che è Noodles. Qualche sogno qualche tempo fa, seguendo un'intuizione poi sono tornato qua, coi miei bagagli a mano su per tutte queste scale, scacciando contro il cielo, scavando sul fondale, senza pensare a ciò che ho perso nel tragitto, tenendo stretto il meglio di me stesso che non ho mai scritto, ringhiando al buio contro una parete, grattando via la quiete, saltando giù nel vuoto senza rete, a picco nell'imbuto, dritto nel conflitto perché so che si rialza solo chi è caduto, nudo e chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche uno sputo di ciò che non ho detto, di quando non ho fatto, cercando nel silenzio il mio riscatto, chiedendo più tempo al tempo, un senso, qualcosa che fosse vero e non andasse perso in mezzo a questo panico dove nessuno ascolta, e ognuno ha la sua recita e ognuno pensa alla sua svolta, nessuno che si volta mai ad aspettarti, e da ste parti sono lasciato, è stato solo per salvarci e non tradirci e ritrovarci liberi e lontani da lucchetti e catenacci, forti anche contro la corrente, pronti a giocarci tutto se non la vita e niente. scudo. Se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, è nudo. Se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Ho fatto il cuore pietra e ho riempito la faretra, perché il tempo non aspetta e non arretra nessuna pietà. Non vengo per nessun bottino in questa terra di banditi. I giorni hanno ammazzato pure i più astuti. Rudo, battiti del cuore, sfido la pressione, vivendo in fretta questo tempo e cancellando il nome, perché la sfida con la vita è in mezzo alle persone e conta quello che hai lasciato, ho capito come. Vivendo e consumandomi ho perduto le mie tracce, gli estranei indifferenti nelle loro facce. Col freddo della vita che toglie il respiro, ho costruito bunker per arrivare al mattino. Vivo, certe volte sulle punte per vedere lontano, altre volte piedi a terra per quello che amo. E se tutto fosse in vano, cielo come Jack dentro il labirinto con un'ascia in mano. Nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto. Eh sì, nudo, se chi si ferma è perduto, non torna indietro neanche un minuto, neanche un minuto. E chi si ferma è perduto, ma so che si rialza solamente chi è caduto. Torniamo in diretta alle 12:13 minuti per parlare un po' di novità e di appunto nuove uscite nel mondo dei fumetti. Partiamo da una bellissima novità, perché quando riguarda GP io sono sempre contenta. Infatti l'editore francese Casterman ha comunicato le prime informazioni riguardo Aldo Brando, il fumetto scritto da GP e disegnato da Luigi Critone, previsto in uscita in Francia il prossimo anno. Aldo Brando, che sarà composto da 200 pagine, uscirà appunto nelle librerie francesi il 15 gennaio 2020, sia in un'edizione regolare che in una versione limitata con speciali contenuti extra. Il libro si può già preordinare online, l'unica cosa che l'edizione italiana ancora non è stata comunicata una data di uscita, quindi si può preordinare se sapete parlare il francese. Comunque si tratta di un racconto fantasy che segue le disavventure di un giovane affidato sin da piccolo alle cure di un mago, che dovrà proteggerlo e istruirlo. Quando poi, una volta cresciuto, questo ragazzo dovrà uscire alla ricerca di erbe per aiutare il mago ferito e curarlo, e a quel punto si ritroverà improvvisamente a dover affrontare il mondo esterno. Quindi sembra una trama interessante e aspettiamo nuove informazioni riguardo la data di uscita appunto per l'edizione italiana, perché io personalmente il francese non lo so. Altra nuova uscita, che invece questa volta riguarda l'Italia, anche una casa editrice italiana, anzi bolognese, che è Canicola Edizioni, che ha presentato il nuovo volume di Michelangelo Setola, che si intitola Gli Sprecati, e l'ha presentato proprio a questa edizione del Festival del Bilbul Bull, che si è tenuto appunto qui a Bologna dal 29 novembre al 1 dicembre. Gli Sprecati, composto da 24 pagine, uscirà nelle librerie e nelle fumetterie il 5 gennaio, quindi se non mi sbaglio domani, perché oggi dovrebbe essere il 4 esattamente, quindi pronti, perché domani uscirà Gli Sprecati di Michelangelo Setola, chissà se magari riuscirò anche ad intervistarlo. Comunque si può già prenotarlo online. Questo fumetto è caratterizzato come tramezzino di Paolo Bacilieri e Susi Corre di Silvia Rocchi, entrambi tra l'altro sono stati intervistati qui a Fuji Comics, quindi andate sempre a recuperarvi gli articoli e le interviste passate. Insomma, vi dicevo che come per Tramezzino e Susi Corre, anche Gli Sprecati sarà stampato in grande formato nella collana Sudaca, che appunto è caratterizzata da questo formato bello grande di stampa dei fumetti. La trama parla di Don Goffo, che è un viandante silenzioso di cui non sappiamo nulla, è come una sorta di moderno Caronte che ci accompagna dalla natura arida e polverosa di un indefinito sud del mondo, che non si sa bene appunto dove è collocato, fino ad arrivare ad una città industriale che sembra quasi una prigione, dove chi entra non ha più la possibilità di uscita. Appunto, in questa grande città industriale c'è una grande fabbrica in cui gli operai lavorano, mangiano, dormono, fanno tutto lì dentro sotto lo sguardo sempre fisso di un padrone che però risulta un po' invisibile e che li forgia per appunto adattarli all'alienazione del lavoro industriale che devono fare quotidianamente tutti i giorni. E continuiamo ancora con un po' di musica, perché le novità in uscita nel mondo dei fumetti sono terminate. Passiamo ai Beastie Boys, gruppo del 1981 di New York, e l'acronimo vuol dire letteralmente ragazzi che entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione interiore. È bellissimo, l'ho scoperto l'altro giorno e sta partendo sotto An Open Letter to New York. Listen all you New Yorkers. New York, you make it happen. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. E abbiamo appena ascoltato i Beastie Boys con An Open Letter to New York, un'altra pietra miliare del rap, questa volta d'oltreoceano. Ma siamo giunti quasi alla fine di questa nona puntata di Fuji Comics, ma ovviamente prima dei saluti finali e dei vari ringraziamenti eccetera eccetera, ci andiamo a sentire il nostro Alessandro e tutti gli appuntamenti bolognesi, non solo, che riguardano sia il proseguimento delle mostre del Billboard Bull, che insomma tutto ciò che riguarda fumetti e graphic novel a Bologna e dintorni. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Fuji Comics. Questi sono gli eventi della settimana nell'ambito del fumetto e dell'illustrazione. Giovedì 5 dicembre alla Biblioteca Sala Borsa in Piazza Nettuno l'ultimo appuntamento con Disognando, incontri con autori e illustratori di fumetto, cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate e cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti. Il ciclo di incontri tenta di rispondere a queste domande ospitando disegnatori e illustratori. In questo incontro Giuseppe Palumbo presenterà il graphic novel Stranieri con Luca Enoch e Arianna Farricella. Continuano le mostre di Billboard Bull, il 7 dicembre sarà l'ultimo giorno per visitare in via Nazario Sauro 27 allo Squadro Galleria d'Arte Ivan Alagbe, Eros Mostro. Lo spaesamento, tema cardine di Billboard Bull 2019, è la sintassi naturale di Ivan Alagbe, autore franco-beninese tra i più influenti del fumetto alternativo. Alagbe decostruisce e ricostruisce, mostra gli angoli più oscuri dell'immaginario contemporaneo e lo fa con un procedimento incandescente, perché le sue immagini ribollono, diventano vive, mobili e mutevoli. Dal 3 dicembre al 20 dicembre sarà invece visitabile allo spazio B5 in vicolo Cattani 5B la mostra dal titolo Chris Reynolds, Giorni nuovi e migliori. Reynolds è un maestro nell'evitare il dramma, la polemica, l'empatia a tutti i costi. Seguire i suoi personaggi è come guardare dentro un acquario. Dopo anni di silenzio, Billboard Bull celebra il suo ritorno con una mostra che raccoglie le tavole originali di The New World, la raccolta dei suoi principali racconti curati da Seth. Questi erano i nostri consigli della settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. E su questa stupenda base degli Air con la Femme d'Argent, che fa parte dell'album Moon Safari uscito nel 1998, io vi do i saluti finali. Ma anzi, prima di salutarvi mi scuso perché improvvisamente credevo che fosse gennaio, quindi vi ho detto che Gli Sprecati di Michelangelo Setola esce domani, ma no, perché siamo a dicembre, quindi esce fra un mese e un giorno, così un misunderstanding di mensilità. Ma siamo arrivati veramente ai saluti finali e soprattutto ai ringraziamenti, perché ringrazio tutti gli ospiti della mia puntata e ringrazio soprattutto Radio Città Fujiko per permettermi di parlare di antifascismo. Ringrazio anche tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, e noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza, sempre con la vostra Rachele Copparoni. Io vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao ciao ciao!